tu vuoi fare la vita del poveraccio in questo tugurio? Io ho un progetto politico importante, Davide, che cambierà la vita a te, a me e a tutti i nostri amici. In che senso? Made in Italy, menti criminali, ND Faz. Questa è roba strana, questa è Made in Italy, roba strana che invece è la realtà. Perché stiamo qua in Italia e quello che si sa succede. Storie vere tutti i giorni e noi siamo qua a raccontarle da tanto tempo ormai. Sono un maniaco italiano, precario, pulsioni incontrollate, socialmente dissociato, in cerca di denaro. Leggi il mio diario sotterraneo e scopri come nasce un assassino, frustrato, allucinato, tra mutui, bollette, licenziamenti. Ora ho scelto l'omicidio per far quadrare i conti e faccio salti mortali per tirare avanti. Puoi solo stringere denti e pregare i tuoi santi, quindi tutti in fila per giocare il lotto, mentre guido una panda dell'88. Ma ho parlato pure troppo, ci sto sotto, esco e non cercarmi, voglio una vittima per sfogarmi. La vita è così dura e qualche volta mi fa paura restare oppresso fra quattro mura, accecato dalla luce che poi ti oscura. Ora ho tolto la sicura, guardo l'acciaio giunta l'ora, tutto casca addosso, aggrappato alla scialuppa nel mare mosso. E chi rimane qua in città nell'ora del tramonto rimane un'ombra nello sfondo, intorno nulla, un'altra ombra nella folla. E mentre il VIP c'ha tempo per soldi, droga e puttane, un'altra giornata per me sono solo debiti e altre grandi storie strane. Cane mangia cane, governo mangia buono, e dimmi cosa resta, la realtà è questa. Non vedo più il mattino, sto assistendo alla nascita di un assassino, condannato al delitto da questa Italia e dal destino. Bene, eroi, bene, eroi. Davide, scusa, ho sentito dei rumori strani. C'è la televisione accesa, va bene? No, no, non sono rumori da televisione. Ho detto che c'è la televisione accesa, ci vediamo stasera al bar, ok? Scusa, c'è qualcosa che non va. La vita è una merda, ma nessuno è colpevole. La depressione c'è, ne sono consapevole. Troppi anni rigo dritto, vivo corretto, ma il sistema è corrotto e il sentiero si fa stretto. Qualcuno preferisce essere sempre fatto, qualcuno fa finta, qualcuno dà di matto. Ma ora il fatto che nascondo la pistola nel cruscotto e qualcosa nella testa ormai si è rotto. Avrò la foto sul giornale, ma mi hai creato tu. Lo stato è alterato e governa la TV. Cambio canale, qua finisce male. Da ombra nella massa a mente criminale. E dimmi cosa resta, la realtà è questa. Non vedo più il mattino, se assistendo alla nascita di un assassino, condannato al delitto da questa Italia già destino. La rabbia esplode col dolore di traumi infantili sepolti chissà dove. Il demone si muove, c'ha fame di situazioni nuove, assetato di cose strane, senza una logica in tasca e una radio in mano. Me ne vado in giro in questa terra di nessuno. La mia musa in casa è chiusa, legata a un letto e sopra un crocifisso che non usa. E se non sono tasse IVA, ammazzarti qua, caro mio, stai tranquillo, ci penso io. E mo che la pellicola scorre in moviola e sangue gola, è l'ora dei titoli di